sosta e poi torniamo a parlare del silenzio. Roger farà alzare la mano a coloro che si prenotano per il pranzo, perché al ristorante vogliono sapere almeno approssimativamente il numero, e quindi facciamo in maniera da rendere compatta l'assemblea. Lei si ferma a pranzo con noi? No. Bene. Forza. Anche lei. Dopo. Avete capito male. Fra poco, quando saremo nel pienone, verificheremo quanti si prenotano per il pranzo. Ecco. Ci sono altri assenti fuori, no? Ma qualche spiriciglio c'è ancora, che ancora, non si sa che strada prende. Ecco, arriva anche Carlo. Bene, diamo inizio a questa parte più propositiva, penso, meno problematica. E noi abbiamo la gioia di avere come relatore Padre Dupuy. Io mi permetto in questo momento di onorare in lui anche la nostra Gregoriana, Università Gregoriana di Roma. La maggioranza di teologi italiani hanno fatto riferimento all'Università Gregoriana, e quindi in questo momento io intendo anche riverire in Padre Dupuy uno dei rappresentanti dei nostri maestri che in Italia hanno avuto tanta incidenza sulla nostra formazione culturale. Ovviamente in lui abbiamo una personalità più spiccata, nel senso che per 25 anni e più ha lavorato in India, e quindi viene dal di dentro di quel mondo di cui questa mattina due informatori hanno dato un eco. In questo senso la sua proposta di reazione cristiana cattolica a questo universo delle religioni ha un tono e un significato particolare. Ecco, io ringrazio già in anticipo. Non si preoccupi della sua lingua italiana, che sarà dolcissima per noi, anche per le cadenze, le fatiche. Noi qui abbiamo un padre italianissimo che pensa in un'altra lingua e fa fatica a parlare in italiano. Toscano. Francescano. Bene, grazie padre. Grazie Monsignore per le parole così gentili. Infatti sono stato in India non 25 anni, ma 36. 36 anni. 25 di insegnamento. Sono partito in India nel 48 e tornato nell'84. Però questo nonostante mi sento molto a disagio stamani per diverse ragioni. Una è il fatto che mi sembra che tutto sia già stato detto, in un senso almeno, cioè il problema è già stato posto molto chiaramente da Monsignore Sartori e dalla bellissima relazione del professore Rossi che abbiamo appena sentito. E mi dà coraggio ciò che diceva Monsignore durante la prima parte di stamane, cioè che un problema visto chiaramente è già risolto 90%, dunque ho soltanto qualche contribuzione da fare per il 10% che ci resta. Dall'altra parte mi sento molto a disagio anche per il mio italiano e spero di avere la vostra indulgenza, e chiedo scusi dunque per parlare la vostra lingua così male. Bene, dunque la mia reazione non sarà direttamente come cristiano al buddismo oppure all'induismo, siccome l'induismo e il buddismo sono stati proposti stamani attraverso la mediazione di queste due persone, Raimondo Panikkar e Henri Lossu, del suo nome di monaco indù cristiano Abhishiktananda, cioè in sanscrito la gioia del Cristo. La mia reazione dunque sarà piuttosto verso diretta, indirizzata verso la esperienza religiosa di Abhishiktananda e la teologia di Raimondo Panikkar. In altre parole, si rivolge dunque la mia relazione verso la sintesi o l'osmosi fra cristianesimo e buddismo da una parte e cristianesimo e induismo dall'altra, come questa osmosi è stata proposta da Panikkar e da Abhishiktananda a partire dal dialogo interreligioso ma anche intrareligioso, come sto per spiegarlo immediatamente. In ogni caso, ambedue le persone, posso dire di aver conosciuto molto bene ambedue le persone, sono stati ambedue dei grandi amici, e Raimondo lo è ancora, invece Henri Lossu è morto nel 73. Hanno dunque fatto ambedue le persone una teologia, sì, dell'incontro, ma a partire dalla pratica dell'incontro interreligioso fra l'induismo e il cristianesimo. Mi sembra che anche nel caso del Panikkar l'induismo è finalmente più importante del buddismo. Parla del buddismo in quel bel libro, Il silenzio di Dio, ma tutto il resto praticamente del suo sforzo teologico è di fare la sintesi fra l'induismo e il cristianesimo. Posso anche notare immediatamente che pur camminando insieme hanno fatto ambedue le persone un cammino molto diverso. Insisto sul fatto che hanno camminato insieme, perché forse questo non è stato detto finora molto chiaramente. Sono stati dei grandi amici e hanno camminato insieme per anni in questo sforzo loro, però in modi veramente molto diversi. Come è stato detto stamani, Panikkar è da madre spagnola e da padre hindu, indiano. È tornato in India per la prima volta quando ci ero già io da quasi 10 anni. Vuol dire dunque che ha avuto tutta la sua educazione in Spagna, in Europa. È stato in India, sì, alcuni anni, sperava di poter avere una cattedra di cristianesimo nell'università di Varanasi, una università molto induista, confessionale. Questo non è mai accaduto. E poi allora, quando è stata offerta una cattedra di storia delle religioni a Santa Barbara negli Stati Uniti, se n'è andato. È tornato in India per delle visite, ma è vissuto proprio la maggior parte della sua vita nell'Occidente. E d'altra parte, Henri Lossu, benedettino francese, è tornato in India nel 1948 e non ha mai lasciato l'India per 25 anni, è morto dunque nel 1973. Sì, prego. Devo interrompere per ragioni pratiche un attimo, siamo già d'accordo col padre. Cioè, adesso che mi pare che siano arrivati quasi tutti, vorrei veramente contare quanti di loro si fermano a pranzo con noi alle 12:30 al ristorante Due Mori in via San Marco. Un attimo di pazienza, permettetemi di contare e allora. Si alzi. Questo è l'antipasto. Va bene, grazie, grazie. Sì. Grazie, scusate. Bene, dunque sono stati molto vicini. Vorrei anche dire che dalla mia esperienza di conoscere abbastanza bene ambedue le persone, ciò che colpiva nella Vishuddhananda era l'esperienza profonda che ha fatto dell'induismo, della mistica indù, lasciando agli altri, come lo spiegheremo un po' più tardi, lasciando agli altri di fare la sintesi teologica di ambedue le esperienze, quella cristiana e quella indù. Si diceva, si chiamava un monaco indù cristiano. D'altra parte il Raimondo Panikkar colpisce più come teologo, come teorico. Infatti, come è stato ricordato già stamani, voleva fare una teologia indù cristiana. Dunque, d'una parte un monaco indù cristiano, dall'altra parte una teologia indù cristiana. Mi sembra che queste parole descrivono abbastanza bene la differenza fra ambedue le persone. E dunque abbiamo già sentito qualche cosa ieri a proposito del dialogo interreligioso. È stato ricordato che bisogna essere attenti di non cadere nel sincretismo e così via. E abbiamo qui adesso due persone, uno si dice un monaco indù cristiano e l'altro si chiama un teologo indù cristiano. Allora evidentemente vengono immediatamente poste delle domande. E cioè, è possibile condividere due fedi? È possibile condividere, vivere in se stesso, nella propria persona, due fedi diverse? Posso dunque essere un indù cristiano? Lasciamo stare per il momento la teologia indù cristiana. È possibile essere indù cristiano, monaco indù cristiano? Beh, in un senso penso che bisognerebbe di no, nel senso che una fede religiosa è un impegno che richiede tutta la persona. Sono del tutto impegnato nella mia fede personale e sembra dunque a livello teorico, teologico almeno, sembra difficile dire che si possa essere allo stesso tempo indù, condividendo dunque la fede religiosa della comunità indù oppure delle comunità indù, e d'altra parte cristiano, condividendo dunque la fede cristiana, specialmente ciò che è centrale nella fede cristiana, cioè il mistero di Gesù Cristo. Nel mio libro, nel primo capitolo, ho spiegato il modo in cui viene inteso, compreso Gesù Cristo dagli indù. È chiaro che non è il modo in cui la fede cristiana comprende, capisce il mistero di Gesù Cristo. Dunque, specialmente quando si tratta del centro della nostra fede, è possibile essere cristiano e indù allo stesso tempo. E d'altra parte, se sembra difficile, sembra anche difficile, allora costruire una teologia indù cristiana. Sant'Anselmo definisce la teologia come fides querens intellectum, cioè è la riflessione sulla propria fede. E dunque, se non possiamo condividere due fedi, almeno in modo assoluto, cioè se non possiamo essere cristiani, indù cristiani, sembrerebbe anche, di nuovo almeno sul livello teorico, difficile costruire una teologia indù cristiana. Non voglio dire che sia del tutto impossibile fare un discorso teologico comune fra indù e cristiani, oppure musulmani e cristiani. Dico però che sembra difficile che si possa fare un discorso teologico globale che abbraccia il centro della nostra fede e della loro fede fra cristiani e indù. Di nuovo si tratterebbe specialmente del mistero di Gesù Cristo. Detto questo, è anche vero che un discorso teologico sulle religioni non può contentarsi di essere un discorso a prioristico, che parte dunque dalle affermazioni della nostra fede, vi è soltanto un mediatore fra Dio e uomini, oppure non vi è un altro nome in cui dobbiamo noi essere salvati. Un discorso dunque a prioristico che, a partire di queste affermazioni chiare della nostra fede, allora viene alla domanda: ma essendo così le cose, cosa possiamo ancora noi cristiani dire a proposito delle altre religioni? Questo discorso a prioristico non ci basta. Si vuole invece un discorso teologico che prenda come punto di partenza la prassi del dialogo interreligioso e che dalla prassi torna allora verso la rivelazione cristiana e nell'incontro dunque vissuto fra prassi di dialogo interreligioso e rivelazione cristiana costruisce un discorso teologico sul significato delle altre tradizioni religiose. Che senso avrebbero queste tradizioni religiose nel piano divino di salvezza per l'umanità intera? In quel senso è evidentemente molto importante questa prassi del dialogo interreligioso e ambedue le nostre persone, Raimondo Panikkar e Abhishek Dhananda, sono in quel senso molto importanti, insistendo sul dialogo interreligioso, il quale deve essere il punto di partenza d'un discorso teologico sul rapporto fra cristianesimo e le altre tradizioni religiose. Panikkar fa una distinzione importante, mi sembra, fra dialogo intrareligioso e dialogo interreligioso. Il dialogo interreligioso è l'incontro fra diverse persone, un partner cristiano, diciamo, e un altro indù. Il dialogo intrareligioso deve essere una preparazione personale per entrare a contatto fra le persone. Cioè, ognuno, il cristiano, anche l'altro partner, diciamo lo indù, deve fare uno sforzo positivo per entrare al di là delle parole usate dall'altro per entrare, dico, nella esperienza religiosa degli altri. Sappiamo bene che i mistici cristiani dicono di non poter veramente esprimere adeguatamente la loro esperienza. Se questo è vero, questo deve essere anche vero per i mistici hindu. E dunque il dialogo intrareligioso consiste nel fare questo sforzo positivo per raggiungere e entrare nella esperienza religiosa dell'altro al di là delle parole attraverso cui esprime la sua esperienza, e sapendo bene che queste parole sono sempre inadeguate per esprimere tale esperienza. Dunque, mentre mi sembra è vero che non si può mai condividere del tutto la fede dell'altro, bisogna però nel processo del dialogo interreligioso fare questo sforzo positivo per entrare nell'esperienza per quanto sia possibile. Per quanto allora riguarda una teologia indu-cristiana, evidentemente ho già detto, ci sono molte cose che possiamo dire insieme. Si può fare dunque un discorso teologico comune, però questo discorso non sarà mai una espressione adeguata, una riflessione totale sulla fede propria. E qui evidentemente si tratta prima di tutto del mistero di Gesù Cristo. Non si può neanche mi sembra, fare una teologia universale. Questo è stato proposto da un autore negli Stati Uniti, il cui nome è Cantwell Smith. Ha scritto un libro, Towards a Universal Theology, verso dunque una teologia universale. Il discorso teologico, dunque, dovrebbe essere un discorso comune fra tutte le tradizioni religiose. Dunque, fra cristiani, indù, buddisti, musulmani, dobbiamo fare un discorso teologico comune. Beh, di nuovo, mi sembra che ci sono delle cose che possiamo dire insieme. Possiamo dunque fare qualche discorso religioso insieme. Possiamo parlare insieme dei problemi della pace, della giustizia nel mondo, di cui si stava parlando ieri, a partire dalla nostra propria convinzione religiosa, qualsiasi diversa, come uomini religiosi. Ma non si potrà mai fare un discorso completo, teologico, perché, come lo sappiamo molto bene, non condividiamo la stessa fede religiosa, e di nuovo torna il problema cristologico. Gesù Cristo al centro della fede cristiana, non inteso nello stesso modo dai musulmani né anche dai buddisti oppure dagli hindu. Dunque, ecco già una prima cosa. La seconda cosa che vorrei dire è che dunque il problema cristologico, la fede cristiana nel mistero di Gesù Cristo, è necessariamente al centro del discorso teologico dell'incontro fra le diverse religioni. Il professore, il Monsignore Sartori, nella sua relazione ha ricordato le tre impostazioni principali nel dibattito odierno sulla teologia delle religioni, cioè l'esclusivismo, l'inclusivismo e il cosiddetto pluralismo, oppure l'ecclesiocentrismo, il cristocentrismo e il teocentrismo. Non torno a questo, suppongo che sia abbastanza chiaro, però il dibattito teologico è molto forte oggi e la letteratura, specialmente in inglese, è incredibile. E il numero dei libri che si sta scrivendo in questa direzione del teocentrismo, che va al di là di un cristocentrismo, è enorme, però non ci torno. Ma vorrei ricordare che nella impostazione cristocentrica oppure inclusiva si dovrebbe di nuovo fare delle distinzioni. E qui di nuovo ci sono due posizioni contrastanti. E la prima si potrebbe chiamare, l'ha ricordato anche il Monsignore Sartori stamane, la prima si potrebbe chiamare la teoria dell'adempimento. Cioè il cristianesimo adempie tutte le altre religioni. Vi è per esempio un libro di Farquhar, missionario protestante in India, dall'induismo verso il cristianesimo. Dunque indica bene il cammino che si farebbe dunque dall'induismo verso il cristianesimo. Il cristianesimo dunque adempie tutte le altre tradizioni religiose. Infatti le altre religioni sono delle espressioni diverse del desiderio dell'uomo ad essere unito con Dio. Espressioni dunque diverse nelle diverse culture di questo movimento che porta l'uomo verso Dio, questo desiderio di essere uniti a Dio. Le altre religioni dunque sono religioni naturali. E allora il cristianesimo e la persona di Gesù Cristo viene dal cielo, cioè dal Padre, come risposta a questo desiderio umano universale. Questa impostazione era quella di Henri de Lubac, quella di Jean Danielou, quella anche di Urs von Balthasar, dunque dei nomi abbastanza importanti nella teologia occidentale. Fra parentesi possiamo osservare anche che rimane l'impostazione di Papa Paolo VI nella sua esortazione apostolica Evangelii Nuntiandi del 75 dopo il sinodo sull'evangelizzazione. Nel famoso numero 53 Paolo VI dice che mentre le altre religioni hanno le braccia stese verso il cielo, non sono capaci mai di mettere a contatto l'uomo con Dio, il che può fare soltanto il cristianesimo, perché Gesù Cristo è il dono del Padre come risposta a questo desiderio umano di venire uniti a Dio. Dunque riprende praticamente Paolo VI l'impostazione di questa teoria così chiamata dell'adempimento. L'altra teoria potremmo chiamarla la teoria della presenza del mistero di Gesù Cristo nelle altre tradizioni religiose. E qui non si dice più che le altre tradizioni religiose sono espressioni varie di questo desiderio umano non sono soltanto dunque religioni naturali, sono già nella storia, nelle culture diverse dell'umanità, delle manifestazioni personali di Dio. Dio si è dunque manifestato personalmente attraverso tutta la storia umana. E le diverse tradizioni religiose sono dunque la memoria nelle culture diverse di questi interventi divini nelle culture umane attraverso la storia dell'umanità. Sono dunque tutte le religioni supernaturali, perché contengono tutte quante un intervento personale di Dio nella vita dei popoli, nelle culture umane diverse. E l'Islam dunque è un intervento divino e dunque condivido del tutto l'idea di trovare una parola di Dio nel Corano, come si stava dicendo ieri. Essendo allora così le cose, bisogna trovare la presenza del mistero di salvezza non soltanto nel cuore delle persone, ma nei dati oggettivi che compongono le tradizioni religiose. Che tutti gli uomini possono essere salvati, beh, deve evidentemente ammettere questo ogni teologo cattolico. È stato detto sempre, almeno dal tempo in cui non si è più compresa in un senso molto ristretto la famosa parola extra ecclesiam nulla salus, che dunque tutti gli uomini possono venire salvati, e se lo sono da Gesù Cristo, beh, questo è un dato su cui non si può discutere, è chiaro. Il Vaticano II lo afferma molto chiaramente nella Gaudium et Spes numero 22, dopo aver spiegato come noi cristiani veniamo a contatto col mistero di Gesù Cristo, aggiunge il Concilio che ciò è anche vero per i non cristiani, perché lo Spirito Santo dà ad ogni uomo la possibilità di venire a contatto con il mistero pasquale di Gesù Cristo e dunque di trovare la salvezza. Dunque su questo non vi è nessuna discussione. Ma la teoria della presenza del mistero di Gesù Cristo nelle tradizioni religiose va al di là di tale posizione. Dice dunque che il mistero di Gesù Cristo non è presente ed operativo soltanto nella vita religiosa, personale, individua, ma è presente ed operativo nelle tradizioni religiose. Vuol dire dunque che vi è una parola di Dio, una parola di Dio, non dico un discorso teologico su Dio, ma una parola di Dio nei libri sacri dell'induismo, nel Corano e così via. Vuol dire dunque che queste tradizioni religiose non sono soltanto l'espressione di questo desiderio umano di cui abbiamo parlato, ma che sono in un certo modo mezzi di salvezza per i loro seguaci, almeno in quel senso che concretamente sarà nella seguela sincera della loro tradizione religiosa, anzi attraverso la seguela sincera della loro tradizione religiosa, che gli altri vengono a contatto con il mistero di Gesù Cristo, che è il mistero della salvezza. Ecco dunque la cosiddetta teoria della presenza del mistero di Gesù Cristo nelle altre tradizioni religiose. L'importanza del panicar, a mio parere, consiste nel fatto che è stato uno dei grandi protagonisti di questa teoria della presenza del mistero di Gesù Cristo nelle altre tradizioni religiose. Specialmente, oppure già, attraverso il suo primo libro, cioè il Cristo sconosciuto dell'induismo, si tratta della sua tesi di dottorato all'Urbaniana a Roma nel 64. L'altro, oppure un altro grande protagonista della stessa teoria teologica nell'Occidente è evidentemente il padre Karl Rahner. Però la differenza fra il Karl Rahner e il panicar consisterebbe nel fatto che l'impostazione del Karl Rahner è a prioristica, come l'avevo spiegato prima, mentre quella del panicar è evidentemente induttiva, cioè parte dalla prassi del dialogo interreligioso. Dunque, al mio parere, questa sarebbe l'importanza del panicar per una cristologia sì, indo-cristiana, dunque come la sta chiamando. Però allo stesso tempo abbiamo qui un grande problema. Ho insistito che si tratta dunque della presenza del mistero di Gesù Cristo non soltanto nel cuore delle persone, ma nei dati oggettivi delle tradizioni religiose, cosicché vengono salvati da Gesù Cristo, ma attraverso la pratica sincera della loro tradizione religiosa. Il punto importante, e è qui proprio che comincio di avere delle domande, il punto è importante. Nella prima edizione del libro Il Cristo sconosciuto dell'induismo non avevo mai nessun dubbio che per il panicar si trattasse di Gesù Cristo. Ma non si può trattare qui d'un Cristo che venga allontanato dal Gesù di Nazareth. E ecco dove il problema reale ci incontra. Si tratta finalmente del problema ben conosciuto da 200 anni nella teologia occidentale del Cristo della fede verso il Gesù della storia. Nella teologia occidentale il problema è quello di come possiamo noi raggiungere il Gesù della storia. Dobbiamo riconoscere il fatto che tutti i documenti del Nuovo Testamento sono stati scritti dal punto di vista, a partire dall'esperienza della Pasqua. Dunque si tratta di una interpretazione di fede del Gesù di Nazareth, del Gesù storico o del Gesù pre-pasquale. Non abbiamo mai dunque nei nostri documenti il Gesù storico puro. Allora come possiamo raggiungere attraverso attraverso questi documenti che ci danno già una interpretazione come possiamo raggiungere questo Gesù storico. Ecco il modo in cui in Occidente è stata proposta la domanda. Beh, sappiamo bene l'importanza che ha avuto in questo questa problematica il Bultmann. Sappiamo anche bene che i cosiddetti post-Bultmanniani, Käsemann prima di tutto, non sono più d'accordo con il maestro, hanno riscoperto che usando il metodo esegetico cosiddetto storico-critico si può raggiungere il Gesù storico. Bultmann diceva che non sappiamo proprio niente sul Gesù storico. E per il Bultmann non era neanche importante, perché siamo interpellati dalla parola di Dio e ci basta. E dunque la nostra fede non viene basata su qualsiasi cosa che si possa sapere sul Gesù storico. Käsemann invece e i cosiddetti post-Bultmanniani dicono che sì, bisogna che la nostra fede in Gesù Cristo sia basata sul Gesù storico. E infatti possiamo raggiungere il Gesù storico attraverso l'uso vero del metodo storico-critico. Dunque ecco come si pone nella discussione occidentale il problema del Cristo, della fede e del Gesù storico. Si tratta dunque di una critica per quanto riguarda il modo di raggiungere questo Gesù della storia. Nel contesto del pluralismo religioso, e specialmente nel contesto dell'incontro fra cristianesimo e induismo, il problema del Cristo della fede e del Gesù storico diventa molto più radicale. Adesso si tratta di critica della storia. Secondo la filosofia indiana, indiana, e secondo la mistica indù, lo storico non può mai avere un valore assoluto, universale. È una cosa impossibile, perché lo storico appartiene necessariamente al relativo. Ciò che Abhishekananda nei suoi libri chiama il nama rupa appartiene al livello dei nomi e delle forme. Non può mai dunque lo storico avere un valore assoluto. E l'errore fatto dunque dal cristianesimo e da tutta la tradizione cristiana consiste nel attribuire al fatto storico di Gesù Cristo, un fatto storico condizionato nel tempo e nello spazio, di attribuire a tale fatto storico un valore assoluto, universale. Dunque, come si può capire che Gesù Cristo sia il Salvatore universale di tutti gli uomini, per tutti i tempi, per tutti i luoghi? Come capire che questo fatto storico particolare di Gesù di Nazareth possa avere un significato dunque universale e assoluto? Ecco dunque l'esclusivismo del cristianesimo, ecco l'arroganza della fede cristiana per la filosofia e per la mistica indù. E d'altra parte sembra chiaro che questo sia al centro della nostra fede. Non vi è nessun altro nome. Vi è soltanto un mediatore fra Dio e gli uomini. sembra chiaro che nel Nuovo Testamento, attraverso tutta la tradizione cristiana, il punto focale sia proprio quello del significato universale dell'evento storico Gesù Cristo e del valore salvifico di questo evento e della persona di Gesù Cristo per la salvezza di tutti gli uomini. Evidentemente nell'incontro fra cristianesimo e induismo si potrebbe esserci il pericolo di allontanare il vincolo, il nesso fra Cristo e Gesù di Nazareth. E questo sarebbe esattamente il mio problema, non dico con il primo libro del Panica, ma nei libri più recenti, specialmente la nuova edizione del primo libro, Il Cristo Sconosciuto. Il dialogo intrareligioso è un libretto finora pubblicato soltanto in inglese, cioè Salvation in Christ. In questi scritti il nostro Panikkar suggerisce che Cristo, ecco le parole che sta usando adesso, Cristo è il più potente simbolo vivente della realtà totale, umana, divina e cosmica, la quale chiama il mistero. Questo simbolo, dunque, Cristo, simbolo del mistero, può assumere diversi nomi. Nel cristianesimo viene chiamato dunque Cristo, ma può assumere altri nomi, per esempio nella tradizione indù, Rama, Krishna, Purusha e così via. I cristiani lo chiamano Cristo perché è in Gesù e per mezzo di Gesù che sono stati, che hanno raggiunto loro la fede nella realtà decisiva. Ma allora il problema è come si può concepire il rapporto tra il simbolo Cristo e il Gesù storico. Viene introdotta qui dal Panikkar una distinzione fra fede e credenza. L'oggetto della fede è lo stesso in tutte le religioni, e cioè il mistero cosmoteandrico di cui si stava parlando durante la prima parte di questa mattinata. L'oggetto dunque della fede è comune a tutte le tradizioni religiose, è questo mistero cosmoteandrico, cioè l'uomo nel cosmo in una relazione verso un assoluto. Ma bisogna distinguere dalla fede la credenza e le credenze. Le credenze sono in modi diversi, nelle diverse tradizioni religiose, in cui questa fede viene espressa. Nel cristianesimo l'oggetto della credenza è il cosiddetto mito Gesù. Usa questa parola, il mito Gesù. Nell'induismo, beh, l'oggetto della credenza sarà per esempio, ce ne sono degli altri, sarà per esempio il mito Krishna. Fra questi miti diversi religiosi si vuole questa interazione di cui si stava parlando già anche stamattina, questa fecondazione a vicenda fra i diversi miti religiosi. Dunque, tutte le religioni hanno come oggetto di fede questo mistero cosmoteandrico, invece Gesù dunque è oggetto di credenza nella tradizione cristiana. Nel processo del dialogo interreligioso, nel processo della fecondazione mutua fra le diverse tradizioni religiose, non si può mai lasciare la fede, cioè il mistero cosmoteandrico. Si potrebbe però dover andare al di là delle credenze. E ecco qui è la mia difficoltà. Mi sto domandando se con questa distinzione non ci stia facendo questo allentamento del Gesù della storia dal Cristo della fede. Si sta parlando di un Cristo che è una espressione nostra nella tradizione cristiana per questo mistero cosmoteandrico. Ma questo mistero cosmoteandrico chiamato Cristo è diverso dalla persona storica del Gesù di Nazareth. E mi sto dunque domandando se questa distinzione, questo allentamento dal Gesù storico, oppure del Gesù storico dal Cristo, si possa fare in fede cristiana. Non è Gesù di Nazareth forse oggetto della nostra fede, non soltanto di questa credenza distinta dalla fede? Non è forse secondo il kerygma cristiano, secondo come lo troviamo negli Atti degli Apostoli, l'oggetto della nostra fede è Gesù Cristo, Gesù che è il Cristo? Se torniamo al capitolo secondo degli Atti degli Apostoli, al primo discorso di Pietro il giorno di Pentecoste, mi sembra che risulta molto chiaro. Cioè, questo uomo che voi avete crocifisso, Dio l'ha risuscitato e risuscitandolo lo ha costituito Cristo e Signore. Dunque, d'una parte, Gesù viene veramente trasformato attraverso il mistero della sua risurrezione. Diventa Cristo. È costituito Cristo dal Padre attraverso il mistero della sua risurrezione. Ma d'altra parte, quello che è risorto, quello che è diventato Cristo, è proprio quello che era morto sulla croce, cioè il Gesù di Nazareth. Dunque rimane l'identità personale fra il Gesù e il Cristo e non si può staccare l'uno dall'altro. E mi sto domandando, io ho discusso questo spessissimo con il mio amico Raimondo, e allora mi stava dicendo, e ho delle sue lettere dove ribadisce lo stesso, mi stava dicendo, dico che sì, il Gesù è Cristo, ma il Cristo non è soltanto Gesù, il Cristo è qualche cosa di più del Gesù storico. E dico, ma sono del tutto d'accordo, nel senso che viene davvero trasformato nella sua umanità attraverso la sua risurrezione, non invece nel senso che ci fosse una distinzione personale fra il Gesù storico e il Cristo della fede. E dunque veramente in questo evento particolare storico della persona Gesù di Nazareth, nell'evento storico della sua morte e della sua risurrezione, che avviene il mistero della salvezza di tutti gli uomini. Questo mostra almeno che il problema cristologico rimane al centro del dibattito fra le tradizioni religiose, specialmente del cristianesimo e dell'induismo, a partire dunque dal dialogo interreligioso. Karl Rahner, anni fa, prima che sia venuto a contatto con questa problematica, scriveva che ciò che dovrebbe fare la cristologia oggi consisterebbe nel mostrare il significato cosmico e universale dell'evento particolare Gesù Cristo, Gesù di Nazareth. E mi sembra chiaro che nel contesto in cui stiamo parlando qui, questo problema, come l'ho già detto, diventa molto più radicale che non nella discussione teologica occidentale. Detto questo, ho parlato soltanto del panicca, ma mi sto domandando se possa andare avanti. Bene, diciamo allora qualche cosa sul mio grande amico Henri Lesoux, Abhishek Dhananda. Una cosa che mi sembra importante è ricordare, molto rapidamente però, le esperienze incredibili che ha fatto. È venuto in India nel 48, l'anno quando ci sono andato anch'io, benché non ci siamo conosciuti per qualche anno però dopo il suo arrivo. Parlo dunque delle esperienze straordinarie che ha vissuto. Prima di tutto l'incontro con il mistico indù più profondo dei tempi recenti, cioè Sri Ramana Maharshi. I soggiorni da eremita cristiano sulla montagna sacra di Arunachala, vedendo questa bellissima montagna ci stavo pensando stamani, il ritiro di 32 giorni nel santo dei santi d'un tempio indù a Kumbakonam, e così via. Penso che è importante ricordare rapidamente tali esperienze da monaco indù cristiano, altrimenti non si spiegherebbe né la vita né il pensiero di Abhishek Dhananda. Il fatto è che Abhishek Dhananda, più di nessun altro penso, ha fatto l'esperienza personale ed esistenziale della mistica indù. Si tratta di un incontro interiore tra mistica indù e mistero cristiano. Certamente ha vissuto l'esperienza della mistica indù dell'advaita, cioè della non dualità, come lo stava spiegando Monsignore stamani, cioè l'uno senza secondo. Nel mio libro, a pagina 83, ho provato di dare una descrizione, non dico definizione, ma una descrizione rapida di questa esperienza della non-dualità, dell'advaita. Lo faccio, infatti, seguendo gli scritti di Abhishek Dhananda. E ecco ciò che ho scritto. L'esperienza dell'advaita a cui conduce l'instancabile ricerca del sé interiore sembrerebbe poter essere descritta come l'ingresso dunque, nella, o meglio come assunzione nella conoscenza che l'assoluto ha di sé stesso. E dunque, letteralmente come visione sull'essere dal punto di vista dell'assoluto. Dall'ottica privilegiata di questa conoscenza assoluta, ogni dualità, ogni dvaita svanisce, giacché solo l'assoluto è assolutamente uno senza secondo. Nel sanscrito ekam advityam. Da questo punto di vista, l'universo e la storia non hanno significato assoluto, come lo stavo dicendo prima, la loro esistenza appartiene all'ambito del relativo, al lila, al gioco, al lila di Dio, gioco divino della creazione, al sorgere dell'esperienza dell'Advaita, la consistenza ontologica del veggente, anch'esso finito svanisce. Lo svegliarsi alla coscienza assoluta non lascia alcun posto a una coscienza soggettiva di sé, come soggetto finito di conoscenza. Ciò che resta è la coscienza aham, io, dunque, la coscienza dell'assoluto, nell'epifenomeno del corpo, aham brahmasmi, sono il Tatvamasi, tu sei questo. Ecco i due famosi brani delle Upanishad dove questa esperienza dell'Advaita viene descritta. Vale a dire, dunque, l'esperienza dell'essere dal punto di vista dell'assoluto, la quale relativizza radicalmente tutto il resto, la storia, l'io personale e così via. Beh, possiamo forse leggere insieme una citazione di Abhichittananda qui. Non vi è posto in me, pagina 97, non vi è posto in me per Dio e per me stesso contemporaneamente. Se vi è Dio, non ci sono io. Se ci sono io, come potrebbe esservi Dio? Dilemma dell'uomo per cui bisogna che lui o Dio scompaiano. Solo tu sei nel profondo di me stesso, tu nel profondo di tutto. Tu che mi guardi, che mi chiami, che mi dai l'essere dicendomi tu, facendomi tuo partner, altro da te e tuttavia indiviso da te, e così via. Scrive che è una cosa terribile, quando non si può più, non si può più raggiungere Dio in preghiera come un io che parla a un tu. Una volta fatta questa esperienza dell'Advaita, la preghiera, dunque, come dialogo interpersonale, non è più possibile. E dunque il nostro Abhichittananda ha vissuto questo dramma interiore, come lo stava ricordando Monsignore già stamani. E cercava dunque il rapporto fra le sue due esperienze, quella indù, quella cristiana. Le due forme della stessa fede, come lo stava dicendo e scrivendo anche. Parla di un oceano di angoscia che ha vissuto attraverso più di 20 anni, cercando dunque come si possa fare questa osmosi, questa sintesi fra la sua fede cristiana e la sua esperienza dell'Advaita. In una pagina famosa nel suo journal intime, già pubblicato, scrive: l'esperienza dell'Advaita è vera, io lo so, e sottolinea questo io lo so, l'ho fatta. Però come riconciliare la fede cristiana con questa esperienza vissuta dell'Advaita, che relativizza tutto il resto? E dunque ritorna il problema del valore della storia, del significato della vita umana, della persona. Si tratta dunque dei rapporti fra Dio, uomo, mondo, come vengono compresi dalla fede cristiana. Si tratta della Trinità. Non è forse il mistero cristiano, oppure non è forse l'esperienza dell'Advaita al di là del mistero della Trinità del cristianesimo. Si tratta del significato della storia della salvezza. Non appartiene questa storia della salvezza al livello del fenomeno, cioè al livello dello storico, cioè il quale non può mai avere un valore assoluto, neanche un valore universale. Cosa dire dell'esperienza di Gesù? L'esperienza dell'Abba, dell'Abba, cioè del mio carissimo padre. Non è forse in cultura semitica un'altra espressione dell'esperienza dell'Advaita? L'esperienza fatta dunque da Gesù non sarebbe forse quella del Tatvam Asi, tu sei questo, oppure dell'Aham Brahman Asmi, io sono il Brahman, cioè dell'identificazione, dell'identità finalmente, dell'assoluto con il Dio fenomenale, come l'ho appena spiegato. E dunque vi è qualsiasi cosa specifica nell'esperienza di Gesù, questa esperienza dell'Abba, sulla quale tutta la nostra cristologia, infatti, per l'identità personale di Gesù come figlio unico di Dio, viene basata. Che senso ha Gesù di Nazareth? Il problema di cui stavamo parlando quando ho parlato del nostro panicca. Il problema anche del rapporto fra Cristo cosmico e Gesù storico, lo stesso problema, il problema del significato dell'atto salvifico di Gesù Cristo e il suo valore universale. E vorrei dare qualche elemento di valutazione, ma mi sembra molto importante ricordare prima di tutto il carattere provvisorio dei scritti di Abhishiktananda. Sapeva di non aver fatto la sintesi a livello teologico. Lasciava questo lavoro a quelli che stavano per venire dopo di sé. E in una parola molto importante dice che la sua vocazione consiste nel tenere insieme ambedue le esperienze nella propria vita, le due forme d'una fede unica, come dice, lasciando dunque il lavoro teologico da fare agli altri. Però vengono posti dei interrogativi dal punto di vista teologico. Uno interrogativo riguarderebbe l'esperienza religiosa, dunque, senza, al di fuori di ogni espressione religiosa, ogni espressione dunque in parole. Si può concepire la possibilità di una esperienza che sia al di là di tutte parole, tutte le parole, di tutti gli enunziati concettuali. Che cosa sarebbe per l'uomo una esperienza tutta al di là dei concetti? L'esperienza dell'Advaita si dice ineffabile, ripudia ciò che chiamiamo noi in teologia l'analogia, ritenuta dualistica. Ne va però della validità in Dio dei concetti veicolati dalla rivelazione trinitaria. Rimane vero oppure non lo è più? Che quando parliamo in Dio di Padre, Figlio e Spirito Santo, diciamo qualche cosa che veramente corrisponde alla vita divina. Oppure dobbiamo dire che sono dei simboli che non corrispondono alla realtà divina, rimanendo la realtà divina del tutto al di là di questi concetti. Ecco un primo interrogativo. Un secondo interrogativo è: possiamo o meno identificare la coscienza di Gesù con l'esperienza dell'Advaita? Oppure rimane nell'esperienza di Gesù la distinzione personale tra il Padre e il Figlio, nonostante l'unità tra le due persone? Si tratta d'una parte di comunione personale del Figlio con il Padre nell'Advaita della divinità, mentre nella tradizione indù, nella mistica indù, viene riconosciuta non il valore del rapporto interpersonale, ma soltanto il valore dell'unificazione, dell'unità. Terzo interrogativo, ritorna di nuovo il problema del Cristo della fede e del Gesù storico. È in causa di nuovo qui la consistenza nel cristianesimo che sia viene attribuita all'evento globale Gesù Cristo, nonostante la sua particolarità storica. Torniamo dunque di nuovo a ciò che ho già chiamato la critica della storia. L'esperienza dell'Advaita riconosce alla storia solo un valore relativo. Il cristianesimo invece riconosce all'evento Gesù Cristo un valore universale e assoluto, il quale evidentemente è a causa della personalità, dell'identità personale di Gesù Cristo come Verbo di Dio, come Figlio di Dio e come Dio, Verbo di Dio, Figlio di Dio incarnato. Se Dio si incarna personalmente nella realtà umana, nella storia umana, allora diventa possibile un evento storico particolare il quale abbia un valore assoluto e universale. Ecco almeno il modo in cui possiamo far capire agli altri come si possa nella tradizione cristiana attribuire all'evento storico particolare tale valore assoluto e universale. Vorrei concludere rapidamente, ho parlato troppo. L'esperienza spirituale dunque di Abhisittananda può, mi sembra, legittimamente servire da simbolo per un incontro esistenziale tra mistica indù e mistero cristiano. Pone più problemi di quanti ne risolva, suscita più di un dilemma. Vi è il dilemma tra apofatismo mistico e cataphatismo teologico, cioè il problema del valore della analogia teologica. Vi è il dilemma tra unità che abolisce le distinzioni, come nell'esperienza dell'Advaita, e d'altra parte comunione interpersonale che approfondisce le distinzioni fra le persone, come nella Trinità cristiana e nel cristianesimo dei rapporti fra Dio e uomo. Vi è anche il dilemma tra storia concepita come epifenomeno di valore relativo e d'altra parte storia rivestita di consistenza ontologica e a cui si può attribuire un valore universale e assoluto a causa del mistero dell'incarnazione di Gesù Cristo. Non ha saputo superare teologicamente queste antinomie il nostro Abhishek Dhananda. Farne la sintesi non era sua vocazione, ne lascio la responsabilità ad altri. Visse però in se stesso e molto profondamente la simbiosi di ambedue le tradizioni. Non poteva più, così lo scriveva, né negare né rinnegare l'una oppure l'altra. Non posso più né negare né rinnegare l'una o l'altra. La sua fedeltà tenace alle due forme di una unica fede fa di lui, mi sembra, una figura profetica. E la sua esperienza apre una via importante verso una teologia cristiana delle religioni che sarebbe fondata sull'incontro esistenziale di queste tradizioni nel dialogo interreligioso. Grazie. Con questa relazione abbiamo raggiunto la vetta, io ritengo, del nostro convegno. Non sono pentito per il fatto che è stata lunga, perché è stata sentita, meditata. Se ha valore quanto abbiamo detto da ieri sera, che l'esperienza è un primum, a me sembrava di fare l'esperienza che l'uditorio partecipava, che l'uditorio era finalmente portato sul monte non di una trasfigurazione di sogni, ma di una problematica. Abbiamo intuito, penso, fatto esperienza